Questa parentesi su Madame de Faucheville mi autorizzi, mentre scendo lungo il boulevard a fianco del signor di Charlieu, ad aprirne un'altra, ancora più lunga ma utile per descrivere quel periodo, sui rapporti di Madame Verdurin con Brichot. In effetti, se il povero Brichot era giudicato con così poca indulgenza da Charlieu, perché questi era al tempo stesso molto fine e più o meno inconsapevolmente germanofilo, era trattato assai peggio ancora dai Verdurin. Loro erano certamente sciovinisti, ragion per cui avrebbero dovuto compiacersi degli articoli di Brichot, e d'altronde non erano inferiori a molti scritti di cui Madame Verdurin si deliziava. Ma in primo luogo si ricorderà forse come già la Raspenier, Brichot, dal grand'uomo che era parso loro un tempo, fosse diventato per i Verdurin, se non una testa di turco come Saniette, almeno l'oggetto di scherni appena velati. Rimaneva tuttavia almeno un fedele tra i fedeli, il che gli assicurava una parte dei vantaggi accordati tacitamente per statuto a tutti i membri fondatori o associati del piccolo gruppo. Ma a mano che con la complicità forse della guerra, o grazie alla rapida cristallizzazione d'un'eleganza così lungamente ritardata, ma di cui tutti gli elementi necessari e rimasti invisibili saturavano da gran tempo il salotto dei Verdurin, questo si era aperto a un nuovo mondo e i fedeli, da prima esche per questo nuovo mondo, avevano finito con l'essere invitati sempre meno. Un fenomeno parallelo si verificava per Brichot. Malgrado la Sorbona, malgrado l'Institut, la sua notorietà non aveva fino alla guerra superato i confini del salotto Verdurin. Ma quando si mise a scrivere quasi quotidianamente articoli ornati di quel falso brillante che tante volte lo abbiamo visto prodigare ai fedeli e ricchi peraltro di un'erudizione affatto reale e che, davvero sorboniano, non cercava di dissimulare, sebbene la circondasse di forme allettanti, il gran mondo fu letteralmente abbagliato. Per una volta, del resto, i suoi favori venivano concessi a qualcuno che era ben lungi dall'essere una nullità e che poteva catturare l'attenzione con la fertilità della sua intelligenza e le risorse della sua memoria. E mentre tre duchesse andavano a passare la serata da Madame Verdurin, altre tre si disputavano l'onore d'avere a pranzo da loro il grand'uomo, che accettava l'invito d'una delle tre sentendosi tanto più libero, in quanto Madame Verdurin, esasperata dal successo dei suoi articoli presso il Faubourg Saint-Germain, badava bene a non avere Brichot per casa quando doveva venirci qualche persona brillante che lui non conosceva ancora e che si sarebbe affrettata ad adescarlo. Fu così che il giornalismo, dove Brichot si limitava in fin dei conti a dare con onore e in cambio di splendidi emolumenti ciò che aveva sperperato per tutta la vita gratis et incognito nel salotto dei Verdurin, i suoi articoli non costandogli più fatica, tant'era colto e facondo delle sue chiacchierate, avrebbe condotto e parve anzi per un attimo condurre Brichot a una gloria incontestata se non ci fosse stata Madame Verdurin. Gli articoli di Brichot non erano certo eccellenti, come credevano le persone di mondo. La volgarità dell'uomo traspariva di continuo sotto la pedanteria del letterato. E accanto a immagini del tutto prive di senso, i tedeschi non potranno più guardare negli occhi la statua di Beethoven, Schiller si sarà rivoltato nella tomba, l'inchiostro che aveva sancito la neutralità del Belgio non si era ancora asciugato, Lenin parla, ma ciò che dice se ne va via col vento della steppa? C'erano trivialità come 20.000 prigionieri non sono uno scherzo, il nostro comando terrà gli occhi ben aperti, vogliamo vincere, punto e basta. Ma, mischiati a questa roba, quanta cultura, quanta intelligenza e che ragionamenti sensati! Ora, Madame Verdurin non cominciava mai un articolo di Brichot senza la soddisfazione preventiva di pensare che ci avrebbe trovato un po' di cose ridicole e lo leggeva con l'attenzione più accanita per essere certa di non lasciarsele scappare. E purtroppo qualcuna ce n'era sicuramente. non aspettava nemmeno d'averla trovata. La citazione più felice di un autore pochissimo noto, almeno quanto all'opera a cui Brichot faceva riferimento, veniva incriminata come prova della più insopportabile pedanteria, e Madame Verdurin aspettava con impazienza l'ora di pranzo per scatenare le risate dei commensali. «Ebbene, cosa ne dite del Brichot di stasera? Ho pensato a voi leggendo la citazione di Cuvier. Onestamente credo che stia diventando matto». «Non l'ho ancora letto», diceva Cottard. «Come? Non l'avete ancora letto? Ma non avete idea delle delizie che vi perdete? Voglio dire che è d'un ridicolo da morire». «E contenta, in fondo, che qualcuno non avesse ancora letto il Brichot per avere l'occasione di metterne in luce lei stessa le ridicolaggini, Madame Verdurin diceva al maggiordomo di portare Le Temps e faceva personalmente la lettura ad alta voce, facendo risuonare con enfasi le frasi più semplici. Dopo pranzo, per tutta la serata, la campagna anti-brichotista continuava, ma con false riserve. «Non lo dico troppo forte perché ho paura che laggiù», diceva la padrona, indicando la contessa Molé, «qualcuno sia in ammirazione. La gente di mondo è più ingenua di quel che si crede». Madame Molé, cui si cercava di far sentire, alzando a sufficienza la voce, che si parlava di lei, sforzandosi nel contempo di mostrarle, abbassandola, che si sarebbe voluto non esser sentiti da lei, rinnegava vilmente Brichot, che metteva in realtà sullo stesso piano di Michelet. Dava ragione a Madame Verdurin e, per concludere comunque su qualcosa che le pareva incontestabile, diceva: «Quello che non si può negare è che sia scritto bene». «Lo trovate ben scritto, voi?» diceva Madame Verdurin. «Io direi che sembra scritto da un maiale». Audacia che faceva ridere la gente di mondo, anche perché Madame Verdurin, come spaventata lei stessa dalla parola maiale, l'aveva pronunciata in un bisbiglio, mettendosi una mano sulla bocca. La sua rabbia contro Brichot era accresciuta dal fatto che lui, ingenuamente, non nascondeva la soddisfazione per il suo successo, malgrado gli accessi di cattivo umore provocatigli dalla censura ogni volta che, come diceva con la sua abitudine di usare le parole nuove per mostrare che non era troppo universitario, aveva oscurato una parte del suo articolo. In sua presenza Madame Verdurin non lasciava troppo vedere, tranne che con una scontrosità che avrebbe insospettito un uomo più perspicace, quanto poco caso facesse di quel che scriveva Chauchot. Solo una volta gli disse che faceva male a scrivere così spesso «io». In effetti, aveva l'abitudine di scriverlo di continuo, in primo luogo perché, per abitudine professorale, se ne serviva costantemente in espressioni come «io non escludo che» e persino per dire «io arrivo a credere che», «io credo che», «io posso credere che l'enorme sviluppo dei fronti esiga», eccetera. Ma soprattutto perché, da anti-Dreyfusista militante che subodorava la preparazione germanica da molto prima della guerra, si era trovato spessissimo a scrivere «io ho denunciato già nel 1897, io ho segnalato nel 1901, io ho messo in guardia nel mio opuscolo, oggi introvabile, Habent sua fata libelli», e gli era poi rimasta l'abitudine. Diventò tutto rosso per l'osservazione di Madame Verdurin, osservazione fattagli con acredine. «Avete ragione, signora. Uno che i gesuiti non li amava più dello stesso Combe, pur non avendo avuto prefazioni di sorta dal nostro dolce maestro di scetticismo delizioso, Anatole France, che fu, se non mi inganno, mio avversario, prima del diluvio dice che l'io è sempre detestabile». A partire da quel momento, Brichot sostituì io con sì. Ma il sì non impediva al lettore d'accorgersi che l'autore parlava di sé e permise all'autore di non smettere più di parlare di sé, di commentare ogni sua minima frase, di fare un articolo su una sola negazione sempre al riparo del sì. Se per esempio, magari in un altro articolo, aveva detto che il valore dell'esercito tedesco non era più lo stesso, Brichot cominciava così. Qui non si vuole alterare la verità. Si è detto che il valore dell'esercito tedesco non era più lo stesso. Non si è detto che esso non era più grande. Tanto meno si scriverà che esso non esiste più. Non si dirà nemmeno che il terreno conquistato, se non è, eccetera. A farla breve, solo enunciando tutto ciò che non avrebbe detto, tutto ciò che aveva detto qualche anno prima, e ciò che Clausewitz, Jomini, Ovidio, Apollonio di Tiana, eccetera, avevano detto da più o meno secoli, Brichot avrebbe potuto facilmente mettere assieme il materiale d'un grosso libro. È un peccato che non ne abbia pubblicato nemmeno uno, perché quegli articoli tanto sostanziosi sono oggi difficili da trovare. Il Faubourg Saint-Germain, messo alle strette da Madame Verdurin, cominciò a ridere di Brichot in casa di lei, ma continuò, una volta fuori dal piccolo clan, ad ammirare Brichot. Poi, farsi beffe di lui diventò una moda, come lo era stato ammirarlo, e le stesse donne su cui continuava a far colpo fin tanto che leggevano il suo articolo in segreto, si interrompevano e ridevano non appena non erano più sole, per non sembrare meno fini delle altre. Mai si parlò tanto di Brichot come in quel periodo nel piccolo clan, ma per deriderlo. Come criterio per valutare l'intelligenza di ogni nuovo si prendeva ciò che pensava degli articoli di Brichot. Se rispondeva male la prima volta, non si mancava di spiegargli da cosa si riconosce l'intelligenza di una persona. E insomma, caro amico, tutto ciò è spaventoso e non abbiamo solo qualche articolo noioso da deplorare. Si parla di vandalismo, di statue distrutte, ma la distruzione di tanti giovani meravigliosi, che erano delle incomparabili statue policrome, non è forse anch'essa vandalismo? Una città senza più uomini belli. Non sarà forse come una città con tutte le statue infrante? Che piacere posso provare andando a pranzo in un ristorante se a servirmi ci sono dei vecchi tripponi ammuffiti che assomigliano a padre di Don, se non addirittura certe donne in cuffia inamidata che ti fanno pensare d'essere capitato al Bouillon Duval. Proprio così, mio caro, e credo d'avere il diritto di parlare così, perché il bello in una materia vivente è pur sempre il bello. Che gusto esser serviti da esseri rachitici, occhialuti, che portano stampato in viso il motivo dell'esonero. Contrariamente a quel che succedeva sempre prima, se uno vuole posare gli occhi su qualcosa di decente in un ristorante, non deve più guardare fra i ragazzi che servono, bensì fra i clienti che consumano. Ma un cameriere lo si poteva rivedere? Sebbene cambiassero spesso, mentre provate un po' a scoprire chi è quando tornerà il sottotenente inglese che viene forse per la prima volta e sarà forse ucciso domani. Quando Augusto di Polonia, come racconta l'incantevole Morin, il delizioso autore di Clarisse, scambiò uno dei suoi reggimenti con una collezione di vasi cinesi, secondo me fece un cattivo affare. Pensate che tutti quei giganteschi lacchè, alti 2 metri, che ornavano le scale monumentali delle più belle fra le nostre amiche, sono stati uccisi dopo essersi arruolati, quasi tutti, perché continuavano a sentirsi dire che la guerra sarebbe durata 2 mesi. Ah. Non conoscevano come me la forza della Germania, la virtù della razza prussiana, si lasciò sfuggire. E poi, accorgendosi d'aver mostrato troppo il suo punto di vista, non è tanto della Germania che ho paura. Per la Francia. Ma della guerra in quanto tale. Chi sta nelle retrovie si figura che la guerra sia soltanto un gigantesco match di pugilato a cui si assiste da lontano, grazie ai giornali. Ma non è niente di simile. È una malattia che quando sembra scongiurata in un punto, riprende in un altro. Oggi Noyon sarà liberata, Domani non ci sarà più né pane né cioccolata. Dopodomani chi si credeva tranquillo e accetterebbe all'occorrenza una pallottola che non immagina sarà preso dal panico leggendo sui giornali che hanno richiamato la sua classe. Quanto ai monumenti, non è poi neanche la scomparsa di un capolavoro come Reims, unico per qualità, che mi spaventa. È soprattutto vedere annientata una tale quantità di complessi che rendevano istruttivo e incantevole ogni minimo villaggio francese. Pensai subito a Combray, ma in altri tempi avevo creduto di diminuirmi agli occhi di Madame de Germain, confessando la modesta posizione di cui la mia famiglia vi godeva. Mi chiesi se essa non fosse stata rivelata ai Germain e al signor di Charlieu da Le Grandin o da Swan, da Saint-Lu o da Morel. Ma persino questa preterizione era meno penosa per me di una spiegazione retrospettiva. Mi augurai solo che il signor di Charlieu non parlasse di Combray.